Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Europa 24 riparte da Expo, da Milano, già, perché Expo, naturalmente, questo grande evento che si avvia a conclusione, ha avuto anche un lato tutto europeo, naturalmente centrato sul padiglione europeo, appunto non distante dal grande albero della vita. Come sapete, domani Radio 24 seguirà l'ultima giornata, saremo insieme per un lungo speciale tra le 16 e 18. Nel frattempo abbiamo voluto chiedere allora un po' il bilancio al responsabile del padiglione europeo, Giancarlo Caratti. Lo ha fatto per noi Livia Zancaner. Noi abbiamo avuto 650.000 visitatori, che non arriva ai livelli degli Stati Uniti, che hanno avuto 4 milioni di visitatori, ma seguiva una filosofia diversa, un po' quella del Kazakistan. Cioè, il visitatore viene intrattenuto per un tempo abbastanza lungo, in modo tale che possa con una certa tranquillità anche acquisire messaggi educativi, informativi e anche divertendosi. In un momento cruciale per l'Europa, i cittadini che sono venuti a Expo si sentono un pochino più vicini quindi all'Unione Europea? Questo è quello che traspare dalle interviste, dalle 2500 interviste che abbiamo fatto. L'aspetto che per noi è più importante in assoluto è l'aspetto della policy. Ci sono stati 67 capi di Stato che sono venuti all'Expo, noi abbiamo organizzato 230 conferenze con 30.000 esperti e abbiamo elaborato anche un documento di sintesi che fa delle raccomandazioni riguardo a cosa si deve fare per risolvere il problema della sicurezza alimentare. E invece a settembre la disoccupazione nell'Eurozona è scesa al 10,8%, ma è così in basso da gennaio 2012, lo comunica Eurostat. Anche nell'UE, nel suo complesso, il tasso è sceso al 9,3%, al suo minimo record dal settembre 2009. In Italia è all'11,8%, ad agosto la disoccupazione nei 19 dunque dell'euro era al 10,9%, a settembre di un anno fa all'11,5%, nell'Europa a 28, quindi tutte le nazioni dell'Unione Europea a 9,4%. E 10,1 lo era appunto un anno fa. E ora parliamo di diritti umani e di una scelta che riconosce il premio Sakharov 2015 al blogger Raif Badawi. Il servizio. È il 31enne Raif Badawi, il vincitore 2015 del premio Sakharov per la libertà di espressione, assegnato ogni anno a Strasburgo dal Parlamento europeo a chi contribuisce alla lotta per i diritti umani e la democrazia. Badawi, fondatore del sito Free Saudi Liberals, forum di discussione sul ruolo della religione nell'Arabia Saudita, è stato condannato nel 2014 a 10 anni di carcere, 1000 frustate e a una multa pari a 240.000 euro per oltraggio all'Islam. Le pene corporali sono state sospese a gennaio 2015 dopo una mobilitazione internazionale per poi essere riconfermate a giugno. Ora il presidente Martin Schulz ha rinnovato l'appello al re saudita di rilasciare Badawi e l'Europa è stata chiamata ad assumere un ruolo più incisivo nei confronti del colosso petrolifero. Le fustigazioni riprenderanno a breve, ha avvertito la moglie di Badawi dal Canada, dove ha ottenuto asilo insieme ai loro 3 figli, e il premio è un messaggio di speranza. L'Arabia ha poco tempo per decidere, perché la richiesta di Strasburgo è di liberare il blogger in tempo perché possa ritirare il premio alla cerimonia del 16 dicembre. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovi problemi invece in vista nei rapporti tra Belgrado e Pristina. Le autorità kosovare, secondo i media serbi, dal 1 novembre non consentiranno l'ingresso in Kosovo delle auto con targhe rilasciate in Serbia e al posto delle carte d'identità introdurranno un nuovo tipo di documento. Marko Djuric, capo dell'ufficio governativo serbo per il Kosovo, ha criticato duramente questi piani, sostenendo che ostacolano ulteriormente il processo di normalizzazione dei rapporti con Belgrado. La dirigenza serba ieri aveva contestato la decisione di Pristina di sospendere invece l'accordo sulla creazione della nuova associazione delle comunità serbe in Kosovo, che era stato concluso il 25 agosto a Bruxelles con la mediazione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Sospensione che è stata annunciata fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata sulla sua legittimità. Insomma, un argomento davvero spinoso. Oggi sarà al centro di una riunione straordinaria del governo serbo, che ha sollecitato al tempo stesso una presa di posizione da parte dell'UE e dalla sua sede di Bruxelles. E con questo direi che è tutto per questa edizione, per questa settimana. Ci risentiamo a partire da lunedì. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.